Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Rosarno, 7 gennaio 2010. La rivolta degli immigrati, bianchi contro neri. Alabama Goodbye. Il cavaliere del lavoro, Don Vincenzo Calabrò, solleva il capo e ammicca il sole. Mani sulle reni e mascella tesa, nel completo di lino ecru e panama candido, appare esattamente come vorrebbe sembrare, un pingue possidente del sud che strizza gli occhi al riverbero verde del suo aranceto. Piante sane, grasse, così cariche di frutti che i rami pendono all'ingiù come braccia arrese alla fatica. Una buona annata se la raccolta non costasse 2 euro alla cassa, pensa con un rigurgito di rancore. 2 euro e non c'è modo di trattare, perché metà va ai caporali e i negri che si arrampicano come scimmie per meno di 70 centesimi non vogliono travagliari. È ora di fare qualcosa, pensa, un botto, bello, forte, tanto per sedersi a ragionare. Un botto che lo sentono fino a Roma. Ma si spicciassero, perché il sole picchia e le arance s'asciugano sui rami. Un altro po' e inziamo addio, il raccolto va a farsi fottere. I vertici dell'Andrina raccolgono via etere l'invocazione e capita che si spiccino davvero. 3 immigrati di colore vengono prontamente feriti con fucile ad aria compressa mentre tornano dai campi. La reazione dei neri è immediata. Si radunano in 2000 e marciano sulla città. Un corteo rumoroso e vandalico che travolge automobili e cassonetti, fracassa vetrine e parabrezza, spaventa le donne e terrorizza i bambini. Ma l'uomo bianco ha il fucile e il nero no. Partono i primi fuoristrada con la carabina sotto il sedile. 2 braccianti vengono investiti, molti vengono sparati. La marea urlante non arretra e chi non marcia scava trincee fra i materassi. Primo giorno di scontri, all'ora di cena, mentre da Roma viene annunciato l'invio dell'esercito, il cavalier Vincenzo Calabrò si affaccia sul portico in cima alla collina. Mani ai fianchi e stecchino fra i denti, guarda dubbioso verso Gioia Tauro. Chissà, si chiede, se calerà il costo della manodopera. Secondo giorno di scontri. Negli ospedali i chirurghi stanno già lavorando come matti quando nel fortino di materassi scoppia un incendio. Urla da stadio fra i bianchi, panico fra i neri, che stremati si arrendono. La guerriglia è finita, i bianchi tornano a casa. I neri, clandestini e regolari, salgono sul bus che li porteranno chissà dove. Sempre vestito di bianco, il cavaliere è di nuovo sotto il portico a scrutare l'aranceto, che adesso brulica come un termitaio. I braccianti sono tutti slavi, costano 1,80 euro alla cassetta e il risparmio non è granché, ma sanno travagliare e almeno sono bianchi. Adele Marini, in libreria con Naviglio Blues, editore Frilli. 492 pagine, 15,90 euro.